35, Mirko, così ti voglio. Non mollarla, Mirko, non mollarla, è tua, ce l'hai già nel bagagliaio, ce l'hai già a casa, Mirko. 35, ci siamo, 35 e 1, 40, 40 là in fondo, 40 euro e 1, 40 euro e 2, 40 euro, chiusa per Mirko, 40 euro. Insomma, ve l'avevamo promesso, avevamo promesso che vi avremmo mandato in un podcast speciale di quello che è accaduto nella serata di Vendo Anch'io, la serata conclusiva a Riva del Garda sabato 19 di giugno, e lo abbiamo fatto. Ringraziamo innanzitutto i ragazzi di Radio Nation che hanno assemblato tutto, hanno preso l'audio e ce l'hanno spedito. Ringraziamo soprattutto Paolino Corleoni che è stato a risentirsela, ha tagliato le cose inutili e l'abbiamo messa a disposizione. Potete accederci sia dal profilo Facebook, l'abbiamo appena postata, oppure anche dal sito di Radio 24, la pagina di Vendo Tutto. È proprio, è un'ora di podcast, è più o meno le cose migliori, Paolo, alla fine, nel senso, durava quanto? Durava un paio d'ore? Quanto? Un'ora e mezza è durata la serata ed è poco più di un'ora. Il podcast speciale di Vendo Anch'io della serata finale è quindi disponibile, grazie a tutti quelli che l'hanno reso possibile. Oggi però parliamo, ah no, aspetta, c'è un altro pezzo da mandare, giusto? Perché abbiamo deciso che facciamo sentire l'inizio e la fine, perché il cuore è stato l'asta, perdonatemi, il cuore è stato l'asta, però la vera conclusione è stata questa. È arrivato il momento importante, entri la busta. Oh, senti qua, è il momento importante questo. C'è Costantino della Gherardesca che noi, annuncia. Noi, poverini, ci siamo la giuria riuniti e abbiamo deciso all'unanimità che il vincitore, che the winner is Simona Fabbri.